Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da febbraio a settembre del 1822. Svolta della Chiesa dopo quasi due secoli, riconosciuta la legittimità delle tesi di Galileo. Prosegue la repressione a Napoli, giustiziati Morelli e Silvati, protagonisti della sollevazione del 20. Tensione tra i reali portoghesi, il principe non torna a Lisbona e proclama l'indipendenza del Brasile. Decrittata la stele di Rosetta, ci sono voluti 20 anni per capire la scrittura degli egizi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura dunque parliamo della mano tesa della Santa Sede verso la scienza. La decisione non ha sorpreso, anche perché per certi versi era attesa, ma resta pur sempre una svolta epocale, anche perché arriva a 189 anni da quel 1633 in cui venne pronunciata la condanna di Galileo Galilei da parte della Santa Inquisizione. Ora invece il Sacro Collegio Cardinalizio ha annunciato che la pubblicazione di opere che trattino il moto della Terra e la stabilità del Sole in accordo con i moderni astronomi è permessa, il che significa in parole povere che le opere di Galileo sul moto terrestre, così come le altre che seguono le teorie copernicane e galileiane, possono essere lette anche dai buoni cattolici. Secondo alcune fonti, tuttavia, occorrerà attendere ancora una decisione del Sant'Uffizio per la revisione effettiva dell'indice dei libri proibiti, in particolare sulla ben nota opera galileiana Dialogo sui massimi sistemi del mondo. In fondo, la teoria dell'eliocentrismo esiste fin dall'antichità, ma si è sempre scontrata con l'interpretazione letterale delle sacre scritture e in particolare del passo in cui Giosuè dice di fronte al popolo di Israele: sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle d'Aialon. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Le cronache di questi mesi, intanto, dagli stati italiani sono ancora cronache di repressione. Catturati dopo un tentativo di fuga rocambolesco e sfortunato, sono stati giustiziati due ex ufficiali dell'esercito borbonico, Michele Morelli e Giuseppe Silvati, responsabili della sollevazione del 1820. Prosegue nel frattempo la battaglia per l'indipendenza dei greci, che nelle ultime settimane hanno inflitto parecchie sconfitte ai dominatori turchi, ma non sono riusciti ad impedir loro di attaccare l'isola di Chio, dove le forze ottomane hanno massacrato, secondo le stime, un quarto dei 30.000 abitanti. A proposito di indipendenza, è tesa la situazione tra i reali portoghesi al termine dell'esilio forzato in Brasile a cui li aveva costretti Bonaparte. Il principe Pietro, nominato reggente del Brasile dal padre e rientrato a Lisbona, ha deciso di proclamare l'indipendenza brasiliana e di dare al paese una costituzione. Era stata trovata nel 1799 durante la spedizione di Bonaparte in Egitto, ora è stata decifrata. Parliamo della cosiddetta stele di Rosetta, la pietra che riporta il decreto di un faraone inciso in geroglifici e in greco antico. L'egittologo francese Jean-François Champillon è riuscito addirittura, dopo aver paragonato alcuni segni con quelli di un obelisco, a compilare una sorta di alfabeto egiziano. È tutto. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, visitate la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Come sempre, da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.